Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Eccoci operativi per il sound check, la prova del suono di Radio 24 qui dal Groove Master Studio per dare il via alla puntata numero 258. Buonasera a tutti voi dal GG Telespori, buonasera anche al nostro Francesco Tromba. Ciao a tutti. E io mi sa che ti devo fare gli auguri. Eh sì, è tuo dovere farmi gli auguri. Ti faccio gli auguri, ti faccio veramente gli auguri. Oggi, è oggi il tuo compleanno? Sì, 10 ottobre è il mio compleanno. Oh, allora, siccome so che io volevo regalarti un CD come Thelonious Monk. Come Thelonious Monk, invece il mio compleanno è fra 4 giorni. Allora, fra 4 giorni ti arriva un pacco di prodotti tipici calabresi. Ecco, e lo sapevo, figurati, io invece pensavo di regalarti un CD. Poi mi sono ricordato che tu non ascolti i CD perché utilizzi tecnologia 2.0 e quindi ti vorrei regalare un buono da utilizzare su iTunes. Sì, fondamentalmente anche perché casa mia è piccola, non ho più spazio per i CD, già ne ho un po', quindi. Sì, sono cambiate le mie abitudini. Una volta regalavo libri e CD, invece adesso ti regalo un codice. Non provo nessuna soddisfazione. Eh sì, è immateriale, quindi è più brutto rispetto a prima. Va bene, comunque auguri Francesco. E compi quanti anni? 28? 28, sì. Che vergogna, 28 anni, sei soltanto di un anno più grande del nostro ospite, che vorrei introdurre nel migliore dei modi, perché oggi, visto che sono arrivate tante richieste, vorremmo parlare di didattica musicale e soprattutto scoprire i misteri e la bellezza di una scuola di musica importante, forse la più importante scuola di musica per quel che riguarda il jazz e la musica contemporanea del mondo, ma ormai da tanti anni a questa parte. È scuola fondata nel 1945, si trova a Boston, quindi a un passo da New York City, e la scuola è sempre quella, Berklee College of Music di Boston. E ne parliamo con un musicista, arrangiatore, producer discografico, appena rientrato nel nostro paese, italiano pugliese, che diversi anni fa, quando aveva 19 anni, ha intrapreso questo percorso didattico e prendendo poi, dopo quanti anni? 3 anni, la laurea in musica lì a Boston. 4-5 anni? 4-5 anni. Che ha perso un po' di tempo, ha fatto bene, no? Ma vi sto parlando quindi di Pasquale Strizzi, che saluto e ringrazio per la presenza. Ciao Gegé, ciao Francesco. Allora, una bella avventura. Quanti anni fa praticamente iniziò l'avventura per gli Stati Uniti? Tutto è iniziato nel 2007, esattamente il primo gennaio, subito dopo il Capodanno, da Roma sono partito per Boston. Ecco, come mai la scelta di andare a studiare musica a Boston, alla Berklee? Tu che cosa stavi frequentando? Il conservatorio, lezioni private? Cosa facevi in Italia? Ma in realtà avevo appena lasciato il conservatorio. E, dopo la scuola superiore. Cosa frequentavi? Pianoforte? Sì, pianoforte classico. Dove? Al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Alternativamente studiavo anche jazz, sempre a Bari, al Pentagramma di Bari. Eh sì, perché allora non c'era ancora il triennio di jazz in Italia. Non ancora. E quindi? E quindi niente, poi ho fatto Umbria Jazz, The Clinics. E in realtà lì non ero neanche a conoscenza del Berklee College of Music. Però alla fine ho vinto una borsa di studio e quindi è cambiato tutto. Sono partito per Boston inaspettatamente. È vero, perché in Italia d'estate a Perugia, in occasione di Umbria Jazz, ormai da tanti anni ci sono le clinics organizzate proprio dai docenti della Berklee College of Music di Boston, il tutto diretto però da uno dei più importanti musicisti di jazz italiani, che è il nostro amico maestro Giovanni Tommaso, che salutiamo e invitiamo al soundcheck per parlarci, insomma, della sua avventura anche come direttore delle Clinics, ma soprattutto per raccontarci la sua incredibile carriera e voglia di musica. Allora, mio caro Francesco, direi di presentare agli appassionati di musica di Radio 24 la figura di Pasquale Strizzi come musicista. Ma presentiamolo dopo, perché c'è poco tempo e ascoltiamo un po' di musica. Hai ragione, vedi come sei bravo, anche nel giorno del tuo compleanno non ti sfugge nulla. Allora, io direi di ascoltare una ragazza che si sta laureando in musica al Berklee College of Music, una vocalist, si chiama Joanna Teeters, vocalist di Mad Satta. Il brano si intitola Simpler Times qui al Soundcheck. Myself tonight to clear my head. Tried everything, but I'm still just left turning alone in my bed. Un nuovo talento from New York City, anche lei studia al Berklee College of Music, si chiama Joanna Teeters, vocalist dei Mad Satta, qui al Soundcheck di Radio 24 per parlare proprio del Berklee College of Music. Perché questa scuola è così importante? Perché tutti i talenti che vogliono studiare jazz ma anche musica contemporanea vogliono andare agli Stati Uniti. Ne parliamo con il nostro Pasquale Strizzi, musicista, pianista, arrangiatore, producer italiano, 27 anni, appena rientrato in Italia dopo un bel percorso di studi ma anche di musica fatta attivamente. Perché chi è Pasquale Strizzi? È un pianista nato a Palo del Colle, provincia di Bari, e già da giovanissimo ha vinto una borsa di studio per Berklee College of Music, dove subito si è distinto per il suo talento. Ha iniziato a suonare e collaborare con artisti come Melissa Aldana, John Patitucci, Wayne Shorter, Joe Lovano, Michelle De Gaiosello. Ha iniziato anche delle tournée in tutto il mondo, da tutta l'America all'Asia, anche l'Europa. Nel 2011 è stato l'unico pianista selezionato dal grandissimo Danilo Perez per far parte del prestigioso Global Jazz Institute. In pratica è un vero e proprio ragazzo prodigio. Un ragazzo prodigio, ospite del Soundcheck, Pasquale Strizzi, che è rientrato dopo tanti anni negli Stati Uniti, perché da Boston poi ti sei spostato a New York, da New York ti sei spostato a Los Angeles e adesso sei tornato in Italia per seguire delle produzioni discografiche. Come ti senti? Insomma, tornare in Italia dopo essersi creati una nuova vita lì in America, adesso bisogna un attimo riabituarsi, però insomma, ritornare alle proprie origini è sempre bello. È sempre bello perché torni in famiglia, però sei abituato ormai a quei ritmi e anche a quell'impostazione di vita, no? L'indipendenza, sì. Allora, Pasquale, facciamo una cosa. Io direi intanto di organizzare un po' gli argomenti raccontando il Berklee College of Music e parlando naturalmente con te di musica, ma andiamo ad apprezzare ancora una volta la voce di Liz Wright in Freedom, brano portante di questo Freedom and Surrender, ultima fatica discografica per questa formidabile vocalista americana. Freedom, when she call my name. Oh, I wonder if she call again and I'll answer. Oh yeah, call again and I'll answer. We've met before, heard some old folks talking about you like you was the Lord. Call again and I'll answer. Oh yeah. Soundcheck, il suono della musica. Hey, mo. momenti differenti, in periodi diversi, anche il chitarrista John Scofield e John Mayer sono stati studenti del Berklee College of Music di Boston. E sì, quelli insieme protagonisti di questa versione di I Don't Need No Doctor di Ashford & Simpson, versione tratta da un album bellissimo di John Scofield, tributo al grande Ray Charles, intitolato infatti What I Say. Oggi parliamo del Berklee College of Music, ma parliamo di didattica, lo facciamo con il nostro ospite Pasquale Strizzi, che ha studiato musica lì, ma oggi è un professionista ed è da poco rientrato in Italia dopo un bel percorso di lavoro negli Stati Uniti, fra New York e Los Angeles. Tanto per ricapitolare, Francesco, no? Ma andiamo a vedere. Dunque, Berklee College of Music, fondata a Boston nel 1945, è il più importante istituto universitario privato del mondo dedicato alla musica contemporanea, in particolare allo studio del jazz e della musica contemporanea, compresi anche corsi sugli stili più moderni come il rock, flamenco, hip hop, il reggae, salsa e il bluegrass. E qui possiamo approfondire col nostro Pasquale, perché proprio Pasquale ha una laurea particolare. Performance Jazz Composition, e poi ha avuto anche la possibilità di studiare Hip Hop Production. Hip Hop Production, cosa che da noi non esiste. Sì, perché... Cioè, negli Stati Uniti uno si può laureare in Hip Hop Production. Che cosa significa? Cioè, che corsi hai fatto per laurearti in Hip Hop Production? Beh, innanzitutto ho avuto la fortuna di poter studiare con Jethro Da Silva, che è stato anche il pianista di Whitney Houston e a volte è andato anche in tour con Giorgia qui in Italia. E, si cura tutto l'aspetto dell'arrangiamento, del mix, di suoni, insomma tutto quello che serve per impacchettare un brano e far sì che possa finire su un album. Ecco, la cosa importante però è che tutti gli iscritti ai corsi della Berklee College of Music devono studiare musica, quindi anche quelli che poi aspirano a diventare dei grandi disc jockey o produttori discografici, comunque musica la devono studiare. Assolutamente, il bello è che dalle 8 del mattino fino alle 3-4 di notte o anche fino alle 6 del mattino musica 24 ore su 24. Allora, ci sono naturalmente tutti i corsi: interpretazione, composizione, composizione jazz, produzione e progettazione musicale, che è quella, il corso che hai fatto anche tu, ma anche musica per soundtrack, no? Sì, composizioni sì, film per film, ma anche management, produzione musicale, scrittura e produzione contemporanea, educazione musicale, composizione, insomma c'è di tutto. Sì, sì. C'è la possibilità, insomma, di se cambi idea nel corso di studi, hai la possibilità di scegliere quello che vuoi. Ecco, una cosa però, quanto costa la scuola e come vive uno studente lì a Boston facendo musica? Beh, che io sappia, attualmente la retta scolastica si è alzata parecchio. E, ai miei tempi, diciamo, quasi 10 anni fa, era molto più fattibile. E tra l'altro tu sei stato aiutato da una borsa di studi, no? Sì, borsa di studio, poi una volta lì sono riuscito a vincere altri premi, borse di studio, e ho avuto anche la possibilità di lavorare all'interno del college. Ah, quindi lavoravi all'interno del college, sì. C'è anche questa opportunità. Venivi pagato? Assolutamente. Assolutamente sì, ma non andavi in giro per pizzerie italiane? No, questa è una cosa che noi sconsigliamo, lo fanno, però lo sconsigliamo perché quando sei negli Stati Uniti per studiare, se vai a fare i lavoretti e ti beccano te ne torni a casa e negli Stati Uniti non ci puoi più tornare, anche. Giusto? Anche questo, lo sapevi? No, non lo sapevo. Ah, non lo sapevo, te lo dico io, perché solo da noi puoi arrivare nel nostro paese e andare a lavorare. Magari vai a raccogliere i pomodori, visto certo, che... Perché là il contratto te lo devono fare. Te lo devono fare, vabbè. Allora, torniamo alla musica, mio caro Pasquale Strizzi. Dopo John Scofield andiamo a un'altra signorina strepitosa che ha studiato alla Berklee e che poi... tra l'altro con una borsa di studi, quella full credit, ovvero non paga niente anche per dormire, è la scuola che le dà questa opportunità, un vero talento che è Speranza Spalding. Tu l'hai conosciuta? Io l'ho conosciuta quando insegnava, ma soltanto per un anno, poi penso sia andata a New York. Ecco, trasferita a New York, però continua ad avere un rapporto con la scuola, e la cosa bella è che Berklee College of Music ha regalato gli studi e anche vitto e alloggio a Speranza Spalding, poi lei ha ripagato con Grammy Award. Infatti è riuscita a rendere famosa completamente anche la scuola, no? Eccola qui, Esperanza Spalding con Algebra Blessed in Black Gold. Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. Soundcheck. Il suono della musica. Tanto per farvi capire musicalmente come la pensa il nostro ospite Pasquale Strizzi, che è appena rientrato in Italia dopo diversi anni negli Stati Uniti come studente a Boston, ma poi New York, Los Angeles, e questo è un brano poi realizzato, mi pare, proprio nella tua, nel tuo studio, che poi sì, era sì, la tua cameretta newyorkese, no? La mia cameretta di 3 metri per 3, dove sì, c'era tutto, un letto, un Rhodes, scrivania, batteria, tutto. Ecco, perché, lo abbiamo raccontato, tu ti sei laureato in produzione hip hop lì al Berklee College of Music di Boston, e naturalmente adesso con un computer, il software giusto, una tastiera USB, un bel microfono e vari strumenti si può realizzare quello che abbiamo ascoltato. Però c'è una cosa fondamentale. Beh, bisogna, oggi non basta, per quanto la tecnologia ci viene incontro e possiamo avere una tastiera, un drum pad, fare tutto a casa, bisogna sempre studiare, bisogna sempre avere una base musicale, studiare, scoprire nuovi generi tutti i giorni. Perché la didattica lì a Boston, al Berklee College, è innovativa sotto molti punti di vista? Beh, tu che hai studiato anche al conservatorio. Beh, la differenza innanzitutto è che lì ti trovi in un mondo pieno, fatto di tante culture, quindi ci sono studenti da tutte le parti del mondo e ognuno di loro ti espone alla musica che ascoltano loro. Quindi molto lo impari dai ragazzi che frequentano la scuola, e poi ovviamente hai l'opportunità di studiare con grandi nomi che hanno fatto la storia della musica. Ecco, io vorrei essere più preciso per quel che riguarda la didattica. La cosa è che quando ci si approccia con la musica in queste scuole, parallelamente le lezioni impartite riguardano solfeggio ritmico, cantato, non parlato, perché quella diventa soltanto una perdita di tempo, ma poi subito un approccio fisico con lo strumento, dare la possibilità subito ai ragazzi di mettere in pratica le loro nozioni, e quindi parallelamente si svolgono le lezioni di ritmo, solfeggio ritmico, armonia e interpretazione. Invece da noi, per esempio nel conservatorio classico, si va un po' a compartimenti, inizi a comporre quando hai già la barba bianca. No, assolutamente c'è una base teorica a cui ogni semestre vieni sottoposto, però ovviamente devi sempre metterti in gioco e fare pratica. Ci sono ensemble, ci sono studi di registrazione messi a disposizione per te, per andare lì e insomma registrare le proprie composizioni. Allora, un altro, ecco, per esempio il brano che abbiamo ascoltato, la tua composizione intitolata Insight, mi ha ricordato in qualche modo le idee musicali di un figlio d'arte, ovvero Taylor McFerrin, che sicuramente certo, conosci. Certo, album molto carino, quello registrato, è vero? Si intitola Early Riser, questa produzione di un paio di anni fa, anche a te è piaciuta molto. Sì, è dell'anno scorso, 2014. Lo chiedo a te perché tu l'hai incontrato e l'hai anche intervistato. Sì, ci ho parlato, è un ragazzo molto gradevole. parole, simpaticissimo. Ecco, simpaticissimo, ma lui ha studiato alla Berkeley, no? Mi pare che la sorella ha studiato lì. La sorella ha studiato lì, sì, la sorella. Va bene, Taylor McFerrin, anche lui se la suona e se la canta in questo brano intitolato Florasia, al soundcheck. Reasons for leaving you I can't think of, never had to. Both understand that we are the reason for one another. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Puntuali dopo l'informazione qui su Radio 24 per il soundcheck di oggi, che ha come ospite il nostro Pasquale Strizzi, musicista italiano ormai residente negli Stati Uniti, rientrato in patria per produzioni discografiche, ma molto legato alla Berklee College of Music di Boston, dove ha lasciato amici insegnanti ma anche tanti studenti che adesso vivono e lavorano in questa città incredibile, freddissima d'inverno. Si vive male d'inverno a Boston, o no? Sì, sì, anche se è una città organizzata. Uno che viene dalla Puglia, un barese come sì, te, sì, sì, come ha affrontato 6 metri di neve? Ma il mio primo inverno lì, io sono andato lì a gennaio, quindi il primo inverno ho fatto questa esperienza di meno 30 gradi per 2 settimane. C'è un c'è il Charles River che separa Boston da Cambridge, che è abbastanza largo, ed era ghiacciato. Gente che ci camminava, ci andava in bici, su ci pattinava, un'esperienza assurda. Beh, forse questo aiuta anche i ragazzi, perché alla fine che possono fare? Stare chiusi nelle loro camerette e studiare musica. Esattamente. Sì. Esattamente. Francesco? Io volevo farti una domanda. Allora, mi è capitato spesso di ascoltare su Bandcamp dei ragazzi appunto che venivano dalla Berklee, e in alcuni casi mi è sembrato come, diciamo, se ci fosse una specie di standardizzazione del suono. Quindi ti volevo chiedere cioè come si fa una volta usciti appunto dal college a trovare la propria via, il proprio stile. Interessante. Beh, innanzitutto direi che nel mio caso, dopo Boston, io sono andato a New York, e New York è abbastanza futuristica, nel senso che si pensa sempre alla musica attuale e a come si può spingere la musica. Poi c'è tutto a New York, c'è indie rock, c'è il jazz, c'è hip hop, ci sono tante culture, quindi il fatto di poter mescolare tutte queste cose e apprendere dalle nuove generazioni, questo ti porta involontariamente a creare qualcosa di nuovo. Il prossimo artista che ascoltiamo qui al soundcheck è una signora della batteria contemporanea, nuovo album per Terry Lynn Carrington, che ha studiato lì a Boston ma è anche docente di batteria e percussioni. Sì, infatti tra l'altro la mia prima esperienza, se vogliamo, mistica, appena arrivato lì al Berklee, ho visto il concerto dell'ensemble degli studenti di Terry Lynn Carrington, con sempre Terry Lynn Carrington alla batteria, e poi c'era il gruppo attuale di Christian Scott, quindi dei musicisti fenomenali che mi hanno subito riportato per terra e sì, perché tu arrivi, ti senti quasi, ecco, sono qui, sono arrivato perché ho talento, sì, ho vinto la borsa di studi. Poi quando arrivi lì ho imparato che capisci che il livello, lo standard medio è altissimo. Ho imparato che non bisogna sopravvalutarsi, ma neanche sottovalutarsi. Terry Lynn Carrington con Can't Resist, e qui la signora della batteria contemporanea, anche lei se la suona e se la canta, è anche molto bene. Soundcheck, il suono della musica. If there's something I need I don't already have, I know I'll get it from a good friend. If there's something I need I don't already have, I know I'll get it from a good friend. Sentite intitola The Switch, il nuovo album di Emily King, forse uno dei dischi più interessanti della stagione, il brano Good Friend, per questa songwriter americana che sta spopolando in questo momento lì nel suo paese, e speriamo di vederla prestissimo dal vivo anche in Italia. Pasquale Strizzi, pianista, compositore e arrangiatore, laureato in jazz composition e poi con un master in hip hop production lì al College di Boston, al Berklee College of Music di Boston, è il nostro ospite per parlare di musica e di didattica. E il nostro Francesco Tromba aveva un altro quesito per te, quindi puoi già tremare. Visto che sei tornato in Italia, appunto, volevo chiederti qual è la differenza proprio di approccio fra lavorare con dei ragazzi americani e con dei ragazzi italiani, anche diciamo la differenza che c'è di attrezzature, perché magari lì al Berklee hai a disposizione uno studio completamente tuo, con ovviamente microfoni eccetera eccetera, tutto comunque di altissima qualità. Beh, diciamo innanzitutto che la differenza tra avere a che fare tra gli italiani e gli americani è che in Italia abbiamo il fattore umano e questo ci fa perdere tempo nel lavoro, nel senso che stiamo così bene fra noi. Non è che agevola, fa perdere tempo, è proprio americano. Sì, sì, diventato. Sì, perché, perché gli americani, quando tu vai nella sala prove, si pensa subito al progetto, poi se c'è tempo e se ancora si ha delle energie, dopo si esce insieme, insomma, eccetera. Poi, insomma, per quanto riguarda... Invece da noi, no, a me interessa il parallelo, invece da noi è un divertirsi continuo. Più, cioè, chiacchiere, chiacchiere, risate, tutto chiacchiere distintivo. Sì, sì, sì, sì. Quindi prima di tutto noi dobbiamo diventare amici, andare a mangiare la pizza, a bere una birretta e poi possiamo entrare in uno studio e fare musica, stanno così le cose. Invece lì tu puoi assoldare un professionista, basta che... Lo paghi, ecco, va subito, si fa l'orario d'ufficio, 2 ore, e, insomma, si è così. E gli americani sono pragmatici. Però, insomma, questo è il lato negativo. E anche il lato negativo. L'aspetto umanitario brutto di essere americani, insomma. È il brutto. È bello perché ha detto umanitario, l'aspetto umanitario. Sì, proprio, cioè, il fattore umano passa in secondo piano, perché loro pensano subito ai soldi. Ecco, non è come da voi in Calabria, subito con l'anduja, no? Bisogna festeggiare. No, da noi c'è proprio prima, ci sono tutti i rituali, devi entrare, devi chiedere permesso per entrare, poi ti si offre da mangiare, se non mangi vieni cacciato. È per quello che gli americani non vengono a lavorare negli studi di registrazione in Calabria. Anche perché sennò diventerebbero il triplo obesi, proprio più obesi di quanto già sono. E invece c'è un formidabile musicista americano, Amin Salim, contrabbassista, bassista fra i più richiesti in questo momento, che molto spesso viene in Italia anche per motivi sentimentali, non so se lo posso dire, sì, perché è fidanzato con Daniela, che è una mia amica. È una ragazza italiana. Una ragazza italiana. E anche per motivi di lavoro, perché ha un trio con il nostro Domenico Sanna. Fatto sta che Amin Salim ha realizzato un album nuovo intitolato The Groove Lab, molto ben realizzato, Cyrus Chestnut al pianoforte, Roy Hargrove, con il quale collabora sempre, alla tromba, insomma, bei musicisti, Gregory Hutchinson alla batteria, e album prodotto da un producer italiano per un'etichetta italiana. Incredibile ma vero. Pensa tu, infatti suona abbastanza americano, ovviamente tutti i musicisti sono americani. Quindi. Suona benissimo, album per Giando Music e Via Veneto, Amin Salim, con la partecipazione di Mavis Swanpool, il brano si intitola For My Baby. Oh, I'm so grateful to have you in my life, and if you have someone that you love special right now, you should turn to them right now, look at them in the eyes, and just say this to them. Anything that lights your eyes is exactly what I want to give. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. I gotta think faster. Just to live today. E siamo passati a un altro bassista, contrabbassista, bassista elettrico, anche lui tanti anni con Mulgrew. Miller oggi è il bassista di Robert Glasper e gli Experiment, e quindi Derek Hodge, meraviglioso musicista, grandissima sensibilità per questo ragazzone che qui in compagnia del rapper Common dal suo ultimo album ci ha fatto ascoltare Live Today. E a Pasquale Strizzi, nostro ospite, che è stato tanti anni a New York, poi si è trasferito a Los Angeles e ha avuto la possibilità di lavorare nell'ambiente tipicamente black, quello hip hop, quello anche un po' più agguerrito e aggressivo musicalmente, con quello dei rapper, mio caro Francesco Tromba. Sì, che come sappiamo, nel senso, è un ambiente abbastanza ristretto, cioè per entrarci devi essere uno veramente serio. Ecco, se non sei nero, come fai a entrare in questo ambiente? Beh, intanto il fattore razziale conta fino a un certo punto, e poi loro imparano a conoscerti personalmente, e se vali musicalmente assolutamente spalancano le porte. No, perché Nicholas Payton adesso sta lanciando da un po' di tempo questo nuovo messaggio, no, che riguarda il BAM, Black American Music, quindi se non sei nero e non conosci il linguaggio, il ponte fra il blues, il jazz e l'R&B e l'hip hop, secondo lui non puoi fare un certo tipo di musica. Beh, questo è perché è importante essere aperti mentalmente, e soprattutto molte volte per i jazzisti potersi aprire alla conoscenza di nuovi generi e quindi lasciarsi influenzare. Quindi se pensi di andare a New York oggi a fare del jazz, devi essere pronto anche ad approcciarti con un gusto ritmico e sonoro diverso. Insomma, non si suona più soltanto bebop o standard di jazz. No, assolutamente, bisogna poter ascoltare dal blues quello che viene da New Orleans all'R&B, l'R&B Motown. Assolutamente bisogna lasciarsi influenzare da questo tipo di ascolto. E questo tipo di approccio lo si apprende studiando, per esempio, alla Berklee College of Music? Naturale? Beh sì, perché l'ambiente in cui ti trovi a Boston, come dicevo prima, fatto da un ambiente frequentato da studenti di tutto il mondo, ti portano assolutamente ad ascoltare vari tipi di musica, ma soprattutto perché fa parte della scena musicale attuale, quella del Motown, soul moderno, hip hop, quindi assolutamente l'ambiente aiuta a farti crescere. Anche discograficamente questa è una mentalità molto newyorkese ormai da diversi anni. Musicisti con il background jazz utilizzano molto spesso nelle loro produzioni rapper che invece hanno il background tipico dell'hip hop, e anche viceversa. Ci sono grandi produzioni di rapper che utilizzano molto spesso i jazzmen della nuova generazione. Vedi? Sì, tipo Kendrick Lamar. Infatti, a questo proposito volevo farti, cioè volevo sapere la tua opinione sul ultimo disco To Pimp a Butterfly, che appunto vede questo rapporto fra hip hop, jazz, ma anche musica classica, perché ci sono diversi c'è anche una formazione dark in questo disco. Beh sì, penso che Kendrick Lamar abbia sorpreso un po' tutti quanti con questo disco, perché ha reintrodotto il concetto di jazz nell'hip hop, perché se ci ricordiamo, inizialmente chi iniziava a fare i primi beat non faceva altro che prendere vecchi dischi di jazz e quindi creare dei beat usando delle campionature, dei loop. Sì, quindi insomma il jazz ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell'hip hop. Allora, per esempio, un musicista che è stato fondamentale per l'evoluzione, anche se non è più considerato un innovatore, ma quasi un musicista classico, jazzisticamente parlando, è il bassista Marcus Miller, che quando scrisse con Miles Davis Tutu, certamente aprì un nuovo percorso. Oggi Marcus Miller continua a produrre i suoi dischi, ad avere grande successo, a fare tantissimi concerti, non è più un innovatore, ma qui lo apprezziamo con Motion Worker in un brano intitolato I Can't Breathe dal nuovo album Aphrodisia. We'll be right back. Soundcheck. Il suono della musica. Everybody sing. Voce di Ainè, nome d'arte di Arnaldo Santoro, vocalist italiano che quest'anno ha preso una bella borsa di studio per andare a studiare al Berklee College of Music di Boston, partecipando proprio ai corsi che si tengono d'estate a Perugia nel periodo di Umbria Jazz. Tu eri presente perché tu sei assistente nella classe di pianoforte lì ai corsi di Umbria Jazz. Sono oramai quasi 8 anni che faccio l'assistente alle Clinic del Berklee. Quindi... Ah, e quindi dagli Stati Uniti ogni anno viene in Italia lavoro. Insomma, il pretesto per tornare in Italia. Allora raccontami di Arnaldo, che ha combinato? Arnaldo si è comportato molto bene, come ovviamente abbiamo potuto vedere, ha vinto una borsa di studio, quindi ha dato nell'occhio. Come cantante non è facile, perché ce ne sono tanti di come cantanti. Come cantante e soprattutto perché è molto versatile e suona più strumenti, quindi è quello che interessa in realtà al Berklee College of Music, di poter avere degli artisti che a 360 gradi sono in grado di vedere la musica, di poterla concepire a partire dalla poter suonare la batteria, da un groove di batteria, pianoforte, basso, e quindi... Questa è la cosa importante. Sì, ecco, per far colpo sui docenti della Berklee, per vincere una borsa di studi. Sì, questo è sicuramente un bel trucco da utilizzare. Senti, il tempo a nostra disposizione è finito, mio caro Pasquale. Io ti auguro di fare tutta la musica che ti va di suonare e di essere felice con la musica. Naturalmente puoi venirci a trovare quando vuoi e raccontarci le tue storie. Adesso proprio mi sa che infatti ho suonato Arnaldo perché so che state collaborando, stai lavorando anche sulla produzione del suo disco. È da un po' di tempo che state lavorando insieme. Sì, è quasi adesso un annetto che stiamo lavorando, arrangiando sua musica. Lo so perché, me l'ha detto lui prima. No, perché quando si viene in Italia e si entra in uno studio si perde tempo, in chiacchiere, tempo, pizza, la birretta. Avremmo potuto fare tutto nel giro di una settimana, invece ce lo stiamo portando avanti da un anno. Hai capito? Sì, bisogna fare l'approccio americano. E quindi me l'aveva detto prima, adesso devo chiamare Arnaldo e glielo devo dire, non perdere tempo, su, che dobbiamo sentire questo disco, lo vogliamo sentire subito. Trasferitevi in America, entrambi. Va bene, grazie a Pasquale Strizzi, in bocca al lupo anche a te, ancora auguri a Francesco Tromba per il compleanno. E che fai, ci offri la cena? Sì, dai, ho portato un po' di cose da mangiare. Chi le ha fatte? Mia nonna. Tua nonna? Dobbiamo andare in un ristorante e aprire champagne, no? No, vabbè, non me lo posso permettere. Che disgraziato. Va bene, a tutti voi buona serata. Vi lascio invece con Pasquale Strizzi, che qui collabora con il chitarrista Davide Tammaro, anche lui musicista italiano residente. Ha studiato al Berklee. Anche lui dal Berklee e adesso vive a New York. Lo senti ancora? Sì, purtroppo ci sentiamo spesso perché siamo amici, abbiamo vissuto a Los Angeles, quindi portiamo avanti questo rapporto di amicizia. E vivi a Brooklyn? Sì, adesso sta in Queens. Adesso si è sposato, quindi scriverà un altro brano, perché questo si intitola Brooklyn, il prossimo lo intitolerà Queens, come l'altra zona di New York. Grazie a tutti voi e buona serata, buona musica. Noi ci risentiamo domani alle 19:15, da non perdere, ho diverse novità jazz da presentarvi. Grazie.